Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Lo sapete che anche il marketing può fare del bene? Ne parleremo nel primo dei nostri approfondimenti, dedicato appunto al cause-related marketing o marketing sociale, il lato buono della pubblicità. Focus sui trend dedicato invece ai consumi multipli, quando gli oggetti transformer fanno tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità della settimana. Dalle righe ai pois fino alle fantasie floreali, maculate e geometriche. Sono gli stampati, il must della prossima estate, con sovrapposizioni a sorpresa e coppie di colori inedite. Ma gli esperti di stile avvertono: attenzione agli abbinamenti cromatici, onde evitare l'effetto clown. Salutisti a casa, trasgressivi fuori. Sono gli italiani a tavola, secondo la ricerca presentata da Autogrill e Fipe. Coldiretti, intanto, certifica il crollo dei consumi alimentari nel 2011, con punte fino al 9%. In calo soprattutto frutta, pane e pesce. Boom per il biologico, più 13%, e per gli acquisti diretti dal produttore, più 28%. In tempi di crisi, il make-up conferma il suo effetto consolatorio ed è boom per il colore. Secondo il Beauty Report dell'Unipro, l'associazione delle imprese della cosmetica, a trainare il settore ci sono gli smalti, che con 100 milioni di euro hanno registrato nel 2010 una crescita delle vendite pari al 16%. Russi nottamboli, tedeschi mattinieri, spagnoli pigroni. Sono alcune delle curiosità sulle abitudini dei turisti stranieri in vacanza in Italia, emerse dal sondaggio di lastminute.com. Anche in Italia si consolida l'e-commerce. Nel 2011 raggiungerà quota 8 miliardi, in crescita del 20% circa. Secondo i dati di Netcom, consorzio del commercio elettronico italiano, rispetto al 2010 i consumatori comprano più spesso, spendono di più e diversificano i propri acquisti. Aumenta inoltre la loro fiducia nel mezzo. Il 23% di chi ha esordito meno di 12 mesi fa, oggi acquista online più di 20 prodotti all'anno. Sbarca in rete anche l'usato firmato. Club Space Privé è il primo portale dove si possono vendere e comprare abbigliamento, accessori e gioielli second hand griffati. Numero 1. Come la monetina di zio Paperone. Debutta con questa insegna l'Haute Couture firmata da Giambattista Valli, che sarà presentata il prossimo luglio durante le sfilate di alta moda di Parigi. La borsa della spesa. Tutti gli incassi saranno devoluti a parte del ricavato andrà a favore di. Quante volte ci capita di leggere questa scritta sulle foto o sulle immagini di una campagna pubblicitaria? Si tratta di cause-related marketing, letteralmente attività di marketing collegata ad una causa sociale. Si tratta di una partnership tra un'azienda, un marchio e un'organizzazione no profit per realizzare un progetto di interesse sociale attraverso la promozione del brand o di un prodotto. Il marketing sociale è un importante strumento per la responsabilità sociale di impresa ed è in forte crescita nonostante la crisi degli investimenti pubblicitari. Lo testimoniano i dati diffusi dall'osservatorio Fondazione Sodalitas, che insieme a Nielsen Media Research monitora gli annunci di cause-related marketing. 200 milioni di euro. Tanto valgono gli investimenti nel marketing sociale in Italia, più 3,3% rispetto a un anno fa. Il settore vale lo 0,6% circa del mercato pubblicitario italiano. Quasi 11.000 gli annunci realizzati nel 2010, l'80% dei quali sulla carta stampata, anche se radio e TV prevalgono per numero di annunci pubblicati. Ancora molto basso il ricorso a internet come canale per campagne di cause-related marketing. Tra i settori che hanno investito maggiormente in campagne sociali spicca l'abbigliamento, che copre il 25% circa degli investimenti, ma a guidare la top 10 delle aziende big spender

Pensavamo che aveste condiviso tutto ciò che sapete del nostro pianeta. Ci avete mentito. Avete commesso un grosso sbaglio. Era Transformers 3, l'ultimo capitolo della saga campione di incassi, uscirà a fine giugno in Italia. Abbiamo usato il trailer per introdurre il tema del focus sui trend di oggi. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Consumi multipli, il tema di questa puntata. Parliamo cioè di tutti quei prodotti multifunzionali, transformer appunto, dai capi di abbigliamento protagonisti della cosiddetta convertible fashion agli oggetti di design multiuso, dagli arredi urbani dinamici fino alle case componibili. Complici le istanze antispreco e la sperimentazione sui materiali sono i prodotti ibridi a fare tendenza. Patrizia. Dal logo di Google alla moda, parliamo di oggetti e merci, materiali e immateriali che riescono a cambiare funzione rimanendo però riconoscibili. Gli abiti multifunzione nella versione più capi in uno, per esempio, sono mantelle che diventano cappotti o gonne che fanno e da sciarpa e da top, creati da brand come JMBY, Alexander Wang e Rachel Palli, Donna Karan e Yunia Watanabe. Oppure nella versione stesso capo che cambia uso, senza essere modificati, per citare un marchio italiano, Morimondo, camice a uso gonna. E poi, seguendo il fenomeno molto di successo in rete, come dicevi, della convertible fashion, il fai da te della moda, con siti tutorial che insegnano come fare, si possono trasformare capi in altri capi, quindi un plaid in un poncho, un jeans in una borsetta, eccetera. In tema di trasformismo e capi d'abbigliamento, questa volta i capi sono quelli dei personaggi preferiti di fumetti e film d'animazione, da citare il fenomeno del cosplaying, fenomeno molto noto che è molto più di un gioco carnevalesco di maschere e costumi, ma appunto è l'espressione di una passione culturale che diventa una proiezione della personalità, quindi una totale identificazione estetica con i propri personaggi finzionali preferiti. Ci si veste come loro, ci si comporta come loro, per lo più scelti da manga e anime giapponesi, ma anche da videogiochi, gruppi musicali, film, telefilm, libri, persino dalla pubblicità. Oggi il cosplaying ha anche una community italiana, cosplayitalia.com, con un ricchissimo archivio fotografico delle persone, dei concorsi e degli eventi. Per estensione, lo style surfing, il surf degli stili, che reinterpreta come dress fiction, come divertente gioco delle parti, la moda, in cui i marchi moda sono appunto questi ricchissimi serbatoi da cui attingere pezzi da combinare liberamente con altri mondi e altri stili per trasformarsi ogni giorno. Nel retail, i negozi cosiddetti di shop sharing come Sidecar di Milano, che cambiano continuamente contenuto, sono cioè dei contenitori di negozi temporanei. La formula commerciale è stata un'innovazione nel settore proprio perché lo stesso luogo fisico si trasforma in un punto vendita monomarca a tempo, con un proprio format, un layout merceologico specifico, apparendo quindi camaleonticamente sempre diverso. E nel mondo dell'editoria internazionale, caso esemplare di trasformismo imprevedibilmente atteso rimane McSweeney's. Non c'è mai un numero uguale all'altro, per stile, formato e anche gruppi di progetto non si sa mai con precisione quando esca. Si tratta di una rivista eccentrica, graficamente innovativa, molto bella, seducente, la rivista letteraria appunto di Dave Eggers. Pubblica pezzi inediti o rifiutati di autori minori o sconosciuti, ma anche grandi nomi della narrativa e saggistica di lingua inglese contemporanea. Imperdibile anche per quelli che non la leggono, visto che ogni numero è diverso dal precedente e di fatto diventa un oggetto d'arte da collezionare. C'è anche una serie TV che vogliamo collocare in questo filone. Si intitola United States of Tara. Nata da un'idea di Steven Spielberg, racconta le vicende di Tara Crane, una casalinga, madre di famiglia, affetta da disturbo della personalità multipla. Allora che succede? Perché ci sei tu invece di mamma? Tua madre sta un attimo messa male, lo sai. Perché non andiamo a comprarci qualcosa? Non abbiamo soldi. Ho saccheggiato un portafogli. Siamo super laminate, baby. Sì, è la personalità con cui vado più d'accordo. Io e Tara dovevamo andare a una dimostrazione della chef Shani, ma qualcosa mi suggerisce che mia sorella non è ancora tornata. Oh mio Dio, che intelligenza! Ma come hai fatto a non finire il corso di massaggiatrice? Lei chi è? Non mi ricordo che personaggio è questo. A te, come totalmente pazza. Perché Non hai risposto al messaggio. C'era un gran casino a casa mia. Sai, mia madre ha delle personalità multiple, te l'ho detto, vero? Beh, ha avuto una crisi ed è spuntata fuori una delle sue tante personalità, quella della nostra età. Tua madre va in giro con la fissa dell'adolescente? No, no, non se ne va in giro perché in realtà T è pigra, ma non è sempre T. Cambia ogni volta. Oh, allora è fuori come una parabola. L'unica costante della realtà è la mutazione, scriveva negli anni 60 un maestro del design come Bruno Munari. Patrizia, oggi i prodotti multifunzione, multiuso, però sono anche un'esigenza dettata dal nostro stile di vita, è cambiato il nostro modo di abitare, di lavorare, di muoversi, di divertirsi anche. Sì, questa tendenza del design è in crescita proprio perché intercetta le nuove esigenze della vita liquida contemporanea, le sue pratiche mutevoli, anche perché la ricerca tecnologica consente anche sperimentazioni nel design degli oggetti transformer, che sono multiforme, multiprestazione, e il design diventa a dir poco stupefacente. Pensiamo in tema di mobilità alle nuove pratiche urbane alternative all'automobile, la bicicletta, mezzo di trasporto a due ruote, diventa per esempio uno zaino trasportabile in spalla, è backpack bike, la bici zaino del designer taiwanese Chang Ting Yen. Altro esempio di mezzi di trasporto trasformabili in quattro forme, quindi multifunzione, Zigo Leader, una speciale bicicletta molto usata a New York, è una vera bicicletta intanto, ma può essere un passeggino a quattro ruote da spingere, un veicolo con cui fare jogging insieme ai figli che si trasportano, e un triciclo con un ampio spazio dove sistemare un altro bambino o la spesa o oggetti da trasportare. Anche la casa è sempre più un luogo pieno di soluzioni intermedie, di oggetti crossover e anche di spazi multiuso che cambiano a seconda delle necessità e degli usi che se ne fanno. Per esempio, nuovo, presentato da T70 al Salone del Mobile di quest'anno, l'ho pronunciato così cercando di far capire che l'enfasi è sulla parola uovo, è una vera cellula abitativa mobile progettata dall'architetto Paolo Maldotti, ha la forma di un uovo con una trama di legno con tessuto o senza e diventa un nucleo polifunzionale poliedrico da usare indoor o outdoor, circa 3 metri per 3, arredato e allestito in molti modi diversi, quindi è una seduta e che per esempio in una hall di un albergo può diventare uno spazio perfino retail, in spiaggia diventa uno spazio prendisole oppure il posto per una doccia o una seduta in un interno. Rimanendo nella casa, la lampada modulare Gus del design spagnolo Santiago Sevillano, distribuita da Mantra, che prevede molteplici configurazioni, è una specie di geomag, di lego magnetico per capirci, quindi fatta di pezzi un po' tutti uguali, curvilinei, da combinare per fare lampadari, lampade da parete, lampade da tavolo o da terra. E spostandoci nel fuori casa, anche il marciapiede si trasforma in arredo urbano. Siamo a Utrecht, progettato da Carmela Bogman e Roger Martin, panca e tavolino piatto innestati nel marciapiede. I passanti ci camminano. Questi oggetti, che non sono ancora tali, non sporgono. Di fatto sono tre pannelli colorati ricoperti di fogli d'alluminio estraibili manualmente con un sistema idraulico alla bisogna. Quindi ci si può costruire una panca, un piano d'appoggio o addirittura una sdraio. Il progetto è pensato per i residenti a cui l'amministrazione ha dato una chiave proprio per attivare questo sistema idraulico di estrazione di questi particolari oggetti di arredo urbano. L'outdoor, che è un ambito di sperimentazione urbana sempre più interessante, esprime oggetti che interpretano questa nuova voglia diffusa di vita all'aperto negli spazi pubblici. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Hong Kong su consumi multipli e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano di Memetic Club. Ciao Alessia. Buon pomeriggio a tutti. In una delle città con maggiore densità abitativa del mondo, saper sfruttare il poco spazio a disposizione diventa vitale. Ebbene, l'architetto Gary Chang ha ideato un sistema sorprendente per ottimizzare lo spazio della sua abitazione, quella in cui ha vissuto da quando aveva 14 anni e che condivideva con i suoi genitori, le sue tre sorelle e un affittuario, tutti stipati in soli 32 metri quadri. Oggi questa casa completamente ristrutturata si chiama Domestic Transformer e se all'apparenza sembra un normale monolocale, all'occorrenza, proprio come i famosi robot, può assumere ben 24 configurazioni differenti, creando come per magia cucina, libreria, lavanderia, cabina armadio, zona relax con tanto di amaca, sala da pranzo, stanza dei giochi, bagno con sauna e naturalmente zona notte. Tutto grazie a pareti che si muovono una sull'altra su rotaie nascoste e scorrono lungo guide poste sul soffitto. Soffitto che è strategicamente specchiante sia per dare l'illusione di maggiore spazio sia per riflettere meglio la luce proveniente dall'unica finestra. Tavoli, letti e sedute si estraggono dalle pareti. Un letto basculante, ad esempio, copre la vasca da bagno quando non la si usa e funge da letto degli ospiti. Il concetto alla base è molto semplice e ce lo spiega lo stesso Chang. Io non mi sposto mai, è la casa che si muove intorno a me. Grazie Alessia. Patrizia, tutto lascia intendere che la multifunzionalità, la versatilità, il trasformismo saranno uno degli elementi forti delle tendenze future. Sì, gli oggetti mutevoli sono legati alle nostre identità sociali mutevoli. Le identità delle persone sono multiple, parliamo di identità e non di personalità come nel caso psicopatologico di Tara, come abbiamo sentito, e quindi identità sociali che sono ricomponibili, sensibili al contesto, che vari a noi si adattano a tempi, luoghi e relazioni diverse, quindi questi oggetti metamorfici tentano simbioticamente di seguirci trasformandosi al mutare delle nostre giornate, delle nostre esigenze. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti. Se vi siete persi qualcosa, cliccate sul nostro sito radio24.it, dove potrete riascoltare e scaricare questa, come tutte le altre puntate di Essere e Avere. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.